24 mattino. Le 8 e 17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi oppure la mail 24mattino@radio24.it. L'economia. Soldi e dintorni. Eccoci qui, Deborah Rosciani, ben ritrovata. Ah, buongiorno a tutti. Eccoci, allora. Stamattina mi diverto e scopro quanto sei massaio. Cos'è, una minaccia, no? Certo, aperta anche. No, vabbè, gli ascoltatori devono sapere che facciamo dei siparietti sul tema del giorno prima della messa in onda. Quindi sta attenta a quello che dici dopo, cioè adesso, durante la messa in onda, perché... Va bene, comunque parliamo di spesa. Sì, sì, parliamo... Tutti andiamo a fare la spesa. Tutti... Io per primo, lo ammetto, anzi mi piace tantissimo. Lo sapevi che per quello che riguarda l'acquisto del burro, del caffè, delle patate, dei gelati, in Italia si pagano tra i prezzi più alti d'Europa? Ecco, questo l'ho scoperto oggi e sinceramente, insomma, sono quattro prodotti ben diffusi, soprattutto patate, caffè e burro, e siamo tra i più cari d'Europa. Esattamente, questo... lo rivela una indagine di Eurostat, l'Istituto di Statistica Europeo, sui prezzi al consumo, e questa indagine è stata resa nota ieri dalla Commissione Europea, che ha divulgato la pagella annuale dei mercati. Ci sono tanti aspetti che riguardano il nostro paese e, come al solito, per tante cose non facciamo una bella figura, tra cui questo. E noi abbiamo colto la palla al balzo per tornare a parlare appunto del tema dei consumi e del carrello della spesa. Dalla scorsa estate, quando l'inflazione aveva registrato un'impennata incredibile, ricordate il petrolio a $147, l'inflazione che aveva superato il 4%, trainata dai prezzi dei carburanti e dei prezzi alimentari, e beh, da lì avevamo seguito tutte quelle iniziative che erano partite o che erano state intensificate da parte della grande distribuzione, le campagne promozionali per alleggerire dal punto di vista finanziario il carrello della spesa delle famiglie italiane, affinché questo potesse essere riempito senza scompensi cardiaci alla cassa da parte appunto dei consumatori. Allora, quante iniziative sono state fatte? Quante ne saranno fatte anche quest'anno, perché come sappiamo la crisi non è finita, le difficoltà per molte famiglie ci sono ancora, e soprattutto le iniziative fatte, che risultati hanno prodotto? Questa mattina ci facciamo questa chiacchierata con Stefano Crippa, responsabile area delle relazioni esterne di Federdistribuzione. Crippa, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che cosa ne pensa di questa inchiesta europea intanto? Ma guardi, prima di tutto sono soltanto quattro prodotti. In generale, quello che noi sappiamo è che non esiste un caso Italia dal punto di vista dei prezzi, anche per quello che riguarda le analisi sull'inflazione che sono state fatte da quando, appunto, come avete ricordato, i prezzi delle materie prime sono aumentati. In realtà l'inflazione in Italia è stata allineata con quella degli altri paesi, quindi complessivamente non si può dire che esista un caso Italia. Poi è chiaro, parlando di quattro prodotti, ciascun prodotto ha una filiera particolare, possono esserci delle peculiarità per cui in Italia ci sia un prezzo leggermente più alto che negli altri paesi, però in generale credo che veramente si possa dire che la situazione dei prezzi in Italia è assolutamente allineata con quella degli altri paesi. E magari indagheremo allora un po' più nel dettaglio, magari nei prossimi giorni, su questa inchiesta europea. Andiamo invece alle iniziative della grande distribuzione attivate quest'anno, come dicevo prima, intensificate, perché forse erano partite anche ben prima che la crisi esplodesse con tutti i suoi effetti. Quali sono state, Crippa, le insegne? Poi magari farò qualche esempio. Più attive, più dinamiche, che tipologia di promozioni hanno sperimentato le grandi catene commerciali, e da quello che vi risulta, quali le promozioni che sono state più apprezzate da parte delle famiglie e dei consumatori? Allora, prima di tutto, tutte le insegne che operano nel mondo della grande distribuzione sono state estremamente attive nell'arco del 2008, come peraltro lo sono state anche negli anni precedenti e lo saranno, poi parleremo del 2009. Perché la grande distribuzione si è assolutamente resa conto che si andava incontro a un momento di grande difficoltà delle famiglie, che il loro potere d'acquisto veniva continuamente eroso, e quindi la scelta di schierarsi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie è stata fatta da tutte. Le insegne in Italia che operano sono tantissime, quindi il panorama delle promozioni messo in atto è stato estremamente variegato. C'è un elemento comune, secondo me, su tutto quello che è stato operato, e cioè la ricerca della massima efficacia, cioè tutte le insegne hanno cercato davvero di portare un contributo importante per quello che riguardava la capacità di spesa delle famiglie. Quindi le promozioni si sono orientate in misura sempre maggiore al dare sconti reali alla spesa delle famiglie. Pensiamo che ormai mediamente in un supermercato una famiglia fa una spesa con un 25-30% di quello che compra in promozione. Sono promozioni che ormai al di sotto del 30% di sconto non vanno praticamente mai, e quindi si può facilmente pensare che comprando una spesa media, quindi senza esagerare anche in termini di promozione, ecco, quantifichiamo il risparmio anche il 10% su una spesa normale. Ecco, poi naturalmente dipende da come è composto questo carrello. Dicevamo, ci piacerebbe appunto qualche esempio anche per dare magari qualche suggerimento in diretta ai nostri ascoltatori, quali sono le insegne più attive e dinamiche. Tutte si sono mosse a vario livello, tra l'altro a volte promuovendo anche accordi con gli enti locali, con le province, con le regioni, per intensificare ulteriormente lo sforzo verso il consumatore. Ne volevo solo segnalare qualcuna. CRAI ha fatto sapere per esempio che i clienti preferiscono sempre più il 2x1 invece che il 3x2, anche questo è sicuramente un sintomo della crisi. A marzo dovrebbe partire una promozione a coupon con la distribuzione di un blocchetto di buoni per 25 prodotti del valore di 20 euro, quantificavamo mezza social card. La Coop ha annunciato che saranno in vendita per un certo periodo 100 prodotti scelti fra quelli più acquistati con il marchio Coop, scontati del 20%. Esselunga ha risposto con l'offerta di un carrello spesa composto da 25 prodotti di prima necessità al costo di 19,89 euro. Iper, la grande I, restituisce sotto forma di buoni spesa uno sconto del 30% su tutti i prodotti, e via dicendo. Io volevo segnalare anche l'iniziativa invece forse più originale, che è stata organizzata sotto Natale da parte di un grande marchio delle catene hard discount, Lidl, un minuto di spesa gratis. Quindi sicuramente c'è stato un grande movimento. Crippa, che test è stato fatto in questo periodo? Inevitabilmente quest'anno, a causa della crisi, una crisi che ha modificato il comportamento dei consumatori, in che modo? Sì, il comportamento dei consumatori si è modificato. Devo dire, cercare di fare una sintesi, un elemento fondamentale, cioè il comportamento del consumatore è diventato estremamente più selettivo. Cioè, noi non abbiamo un consumatore che si rivolge sempre al prodotto che costa meno, o un consumatore che al contrario si rivolge sempre al prodotto più caro alla ricerca di qualità. È un consumatore che fa delle scelte precise, che quindi cerca di allocare il proprio budget di spesa in maniera estremamente razionale. Quindi noi abbiamo un consumatore che per alcuni prodotti decide di comprare per esempio il cosiddetto primo prezzo, cioè il prodotto che costa meno all'interno dell'assortimento di un supermercato, perché decide che su quel prodotto non vuole investire la propria capacità di spesa. Invece, da un'altra parte, perché per esempio ha poco tempo da dedicare alla cucina, decide di acquistare prodotti ad alto contenuto di servizio, che naturalmente hanno un costo più alto rispetto ai prodotti tradizionali. Quindi questo secondo me è l'elemento fondamentale, un consumatore che cerca veramente di fare una spesa razionale e quindi fa delle scelte estremamente precise. Crippa, 10 secondi di tempo. Nel 2009 le iniziative continueranno, immagino? Le iniziative continueranno, siamo sicuri che anche nel 2009 il consumatore avrà bisogno di avere un sostegno per la propria capacità di spesa. Io credo che il comportamento estremamente responsabile che la grande distribuzione ha dimostrato in questi anni continuerà anche nel 2009, e quindi continueremo non solo con le promozioni, ma cercando di garantire quella libertà di scelta al consumatore che secondo noi è l'elemento fondamentale. Quindi per esempio punteremo ancora e sempre di più sui prodotti a marchio privato, che sono i prodotti nei quali c'è il marchio dell'insegna, che quindi garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo per il consumatore. Grazie Stefano Crippa, Feder Distribuzione, buona giornata. Alessandro Milan. Eccoci qua, ci devi dire alle 12 che fai. Ah beh, pensavo volessi sapere che cosa compro al supermercato. No. Decreto anticrisi, conto in rosso, le novità sulla commissione di Massimo Scoperto alle 12. Le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle ultime notizie. Luana Englaro è a Udine, nella clinica La Quiete, dove sarà applicata la sentenza che consente l'interruzione all'alimentazione artificiale. La ragazza in stato di coma vegetativo permanente è stata trasferita durante la notte da Lecco tra le proteste di diversi attivisti che hanno tentato di bloccare l'ambulanza. È in gravi condizioni l'indiano bruciato da tre ragazzi a Nettuno. Per il presidente della Repubblica Napolitano si tratta di un episodio raccapricciante, oggi l'interrogatorio dei tre giovani. Intanto è polemica sull'immigrazione per una frase del ministro all'interno Maroni: con i clandestini non serve il buonismo, ha detto Maroni, bisogna essere cattivi e determinati. Il presidente del Consiglio Berlusconi risponde alle accuse di immobilismo per affrontare la situazione economica. I provvedimenti presi, ha detto Berlusconi, valgono 40 miliardi di euro che potranno salire a 80 grazie ai fondi europei. Infine il calcio, la Fiorentina vince 3-1 a Bologna. Il recupero di Serie A. Intanto a Milano gente che va e gente che forse resta. Quaresma lascia l'Inter e va al Chelsea, mentre David Beckham avrebbe chiesto ai suoi avvocati di rescindere il contratto con i Galaxy di Los Angeles per restare al Milan. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, oggi dedicato a una formula innovativa di welfare che è stata messa a punto da un grande gruppo industriale in accordo con i sindacati. Sentite. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Oggi ci occupiamo di un caso aziendale destinato a far discutere molto il mondo del lavoro e probabilmente anche a cambiarlo in meglio. La Luxottica, il leader mondiale dell'occhialeria di Del Vecchio, ha raggiunto un accordo con i sindacati per cercare di difendere il potere d'acquisto di operai e impiegati. I dipendenti, anziché ricevere un integrativo in denaro, potranno farsi pagare dall'azienda le spese primarie, cioè l'alimentazione, saranno aiutati nell'acquisto di beni durevoli o, per esempio, nel finanziamento di corsi di formazione, magari per i propri figli, entro ovviamente un certo tetto. Qual è la vera novità di questo accordo della Luxottica? Che il costo aziendale equivale al beneficio per il proprio dipendente. Si annulla così la differenza, peraltro ridotta dalla detassazione di premi straordinari, fra costo lordo per l'azienda e incasso netto per il lavoratore. L'azienda può anche ottenere interessanti riduzioni di prezzo dalle grandi catene distributive. L'integrazione allo stipendio finisce in consumi e non si risparmia, e così aiuta l'intera economia. Certo, bisogna permetterselo, come la Luxottica, in tanti altri casi purtroppo è già tanto se si conserva il posto di lavoro. Buona giornata a tutti. Grazie allora Ferruccio De Bortoli, che troveremo domattina puntuale. 349-238-6666 per i vostri messaggi. L'attualità politica oggi nella chiacchierata che facciamo con il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Di Pietro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io partirei da quello che è successo ieri. C'è stato un esecutivo del partito e oggi poi le cronache dei giornali l'avrà viste, parlano anche insomma di parole grosse, rissa. Vabbè, insomma un esecutivo molto vivace pare che sia stato quello dell'Italia dei Valori. Partiamo però dall'ultima proposta che lei ha fatto e ieri ha rilanciato, e cioè fuori dalla Campania tutti gli amministratori dell'Italia dei Valori che non sfiduciano le giunte o Bassolino o Iervolino. Conferma che questa è la linea del partito? Confermo questo, ma confermo innanzitutto quel che è un'impressione che ormai noi stiamo ricevendo in tutta la sua gravità, quello di un'informazione che racconta lo stuzzicadente e tralascia la trave, che indica il dito e non vede la luna. Ieri non c'è stato un partito dove ci sono state risse, ieri c'è stato un partito che, a dimostrazione della sua democratica valutazione dei fatti e delle decisioni democratiche che si prendono, nell'espressione di tutti i suoi dirigenti, un centinaio di persone, si è riunito e senza alcuna rissa, ma con una grande partecipazione emotiva, collaborativa e sempre all'unanimità, ha deciso alcune cose importanti, dove quello della Campania è una delle 10 cose importanti. Abbiamo deciso cosa prendere, qual è la nostra posizione sul federalismo, sulla giustizia, sull'economia, sulla politica internazionale. Ovviamente in Campania, dove abbiamo preso una decisione, crediamo, importante per segnare una discontinuità di politiche con l'insufficiente realizzazione dell'attività di governo nel comune e nella regione, anche di questo nell'informazione di oggi non se ne parla, si parla semplicemente del fatto che c'è stata polemica. Ecco, io, se permette, grazie alla sua telefonata, grazie a questo contatto, vorrei supplicare i cittadini di stare attenti all'informazione di oggi, che ormai risponde soltanto alla logica della denigrazione e alla totale disinformazione. Vabbè, ma Di Pietro, adesso parliamo dei vari temi, però so che sul punto male, però io no, lo devo dire. No, ma che fa male, ma si figuri, io sono aperto alle critiche, so che è aperto alle critiche anche lei. Allora, la questione della Campania però conferma, insomma, poi veniamo agli altri punti. Cioè, noi dell'Italia dei Valori crediamo, per quanto riguarda la Campania, a prescindere da tutti i risvolti penali che sono in corso, noi crediamo che l'esperienza politica, la credibilità di governo sia arrivata al capolinea, perché appunto sia in regione sia al comune le soluzioni adottate sono state soluzioni di ripiego, e invece crediamo che sia necessario che i cittadini possano ritornare al voto e quindi ritrovare un rapporto di fiducia fra la classe politica e la classe degli elettori. Siccome invece ci si mette sempre una pezza, si rinvia sempre a domani, ma lì i problemi, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione, il lavoro, la sicurezza, sono drammatici, ci siamo assunti la responsabilità di dire: noi non possiamo continuare a stare a guardare. E ho detto, come partito, tutto di noi come partito abbiamo detto, l'unica cosa è chiedere una mozione di sfiducia affinché si va a votare, e dire ai nostri amministratori: non potete voi dire che in nome dell'Italia dei Valori state lì a amministrare quando non riuscite ad amministrare, perché è tutto incessato, tutto fermo. Perfetto, è quindi un atto di responsabilità che addirittura si è esteso fino al punto in cui ho detto: siccome lì c'è anche un problema di trasparenza e di rapporti con la giustizia, o dovesse capitare a qualcuno dell'Italia dei Valori di avere a che fare con la giustizia, si deve immediatamente dimettere dal partito, e per quanto mi riguarda si deve dimettere anche dal ruolo pubblico. Quello non lo posso costringere, ma dal partito sì. Vabbè. Proprio perché dobbiamo dare un segno di distinzione. Perché gli altri partiti non lo fanno? Perché gli altri partiti, con addirittura parlamentari con provvedimenti di cattura in corso, vanno a pontificare in televisione? Allora, Di Pietro, oggi arriva al Parlamento la questione dello sbarramento al 4% per le europee. Lei è favorevole a questo sbarramento oppure no? Io vorrei che non ci fosse questo 4%, vorrei che non ci fosse, ma questa è la scelta che hanno fatto i due partiti, PD e PDL, e noi dell'Italia dei Valori da sempre, anche quando avevamo il 2%, anche quando avevamo l'1%, non abbiamo mai detto: ci lamentiamo perché hai messo l'asticella più alta. Noi accettiamo qualsiasi sfida. Noi siamo convinti che gli elettori voteranno e votano un partito non come risulta e per contrapposizione ad altri. Siamo convinti che ci vuole le preferenze innanzitutto per permettere ai cittadini di scegliere i propri eletti, e per questa ragione il fatto che siamo riusciti a bloccare per il Parlamento europeo che quest'altra scellerata soluzione venisse presa già ci inorgoglisce. Avremmo e vorremmo anche batterci per evitare che ci sia il 4%, ma l'hanno deciso i due partiti maggiori, quando appunto PD e PDL decidono per esempio anche di non fare in modo che noi siamo presenti nella vigilanza RAI, c'è poco da fare, puoi urlare, loro se ne fregano, ma la prossima volta avremo una maggioranza noi tale per cui anche noi potremo dire la propria. Ah, beh, questa è una dichiarazione di guerra politica, avremo la maggioranza. Ma voi, noi in che senso? In che senso l'Italia dei Valori sul PD? Cioè, nel senso, vuole rubare voti al PD? Nel senso, coalizione riformista del governo Berlusconi. Guardi che io l'opposizione la faccio al governo Berlusconi, non agli alleati. No, è stato chiarissimo. Senta, l'altro tema della settimana molto caldo è quello dell'intercettazione, il disegno di legge. Perché contro questo disegno di legge? Anche Borrelli, che lei conosce molto bene, ha detto forse qualche esagerazione, bisogna ammetterlo, anche da parte della magistratura c'è stata in questi anni sulle intercettazioni. Ecco, ancora una volta si prende un intercalare di Borrelli che l'aveva detto appunto, perché c'è una virgola dopo che ha detto forse qualche esagerazione sia stata, virgola, ma questo non è una buona ragione per impedire, interrompere o limitare l'uso dell'intercettazione per combattere la criminalità. Questa è la frase completa di Borrelli. Nel merito, torno a ripetere, quel che bisogna vedere è che bisogna combattere le anomalie, semmai. Se lei ha un bisturi in mano ed è un medico che fa il chirurgo in sala operatoria, non è che se il chirurgo una volta ci ammazza la moglie, lei dice tutti i medici in sala operatoria non possono usare più il bisturi. Lei combatte quel medico che l'ha usato per ammazzare la moglie. Tradotto, l'intercettazione telefonica, così come la si propone di abrogare, è un male peggio di quel che si vuole rimediare. Perché? Le dico solo alcune perle, tanto per comprenderci come sta la situazione. Per intercettare un telefono, per mettere una microspia, per mettere una videocamera in mezzo alla strada per vedere se c'è qualcuno che stupra, ci vuole gravi indizi di colpevolezza. Tu devi già sapere che uno è colpevole di un reato. Ma se io so che uno è già colpevole del reato, lo arresto, lo condanno, non lo intercetto. Cioè, tu, secondo questa legge, devi arrivare a intercettare il momento dopo che già sai quel che devi cercare. Ma se lo so che lo intercetto a fare, l'intercettazione è uno strumento per scoprire il fatto. È anche un'anomalia leggere però tutto spiattellato sui giornali, su questo sarà d'accordo con me. C'è andato di mezzo anche suo figlio, peraltro, come l'hai messa. Attenzione, diciamo, Pampa Frasca qui. Allora, una cosa è fare in modo che non venga spiattellato sul giornale, altra cosa è non farlo. Allora, cominciando da voi dell'informazione, da quelli che danno le notizie di informazione, si facessero un esame di coscienza e soprattutto, se davvero il governo e il Parlamento vuole eliminare questo problema, intervenisse sul sistema della pubblicazione delle notizie e non intervenisse sull'intercettazione. Torno a ripetere, qui, siccome c'è un problema, che alcune telefonate che non ci azzeccano niente vanno a finire sui giornali e che si rovina la privacy delle persone, e tutto questo è vero, si dice non si utilizza più la macchina. Siccome ogni tanto c'è un incidente con la macchina per autostrada, eliminiamo le macchine e le autostrade. No, tu fai in modo che si guida senza ubriacarsi. Senta Di Pietro, davvero non è pentito e non ha niente di cui chiedere scusa per le frasi sul presidente Napolitano? Se l'avessi offeso dovrei chiedere scusa, ma anche qui invito i cittadini a vedere attraverso la rete internet il mio discorso. E perché io Napolitano? Perché il Quirinale ha reagito così? Frasi offensive. Certo, anche il Quirinale ha travisato quello che ha detto, non credo. No, ma scusa, ma perché il Quirinale stava in Piazza Farnese? Il Quirinale ha reagito sulla base dell'informazione, delle notizie di agenzie che sono uscite ancora una volta col tagli e cuce. Siccome stavolta c'è almeno 200.000 persone come testimone, il giochino non è riuscito. 200.000 persone, non perché eravamo a Piazza Farnese, ma perché eravamo collegati attraverso Skype, attraverso la rete internet, eravamo collegati con una miriade di persone in giro per il mondo, e quindi tutti hanno visto la dicotomia fra quel che ho detto e quel che mi hanno messo in bocca. Allora io ripeto anche qui, affinché anche qui i cittadini possano sapere. Io ho detto due cose. Attenzione, a Piazza Farnese non c'era un'associazione di evasori che stavano contestando il capo dello Stato, c'erano l'associazione, quelli dell'associazione vittime e familiari dei morti ammazzati per la mafia. Allora, questa associazione ha fatto una manifestazione perché si lamentava del fatto che erano lasciati abbandonati, si sentono lasciati abbandonati, e ha invitato tutti i 900 parlamentari di partecipare. Noi dell'Italia dei Valori, io c'ero, gli altri non c'erano, e questa è stata l'anomalia, perché si sono sentiti colpiti del fatto che si sono visti il loro manifreghismo e si hanno cominciato a girarlo. Dopodiché io cosa ho detto? Non mi perdoni, cosa ho detto? Sì. Lo lasciamo dire ai cittadini, che poi ai cittadini, visto che gli si dà disinformazione, diamo la verità. Allora, sto dicendo, io ho detto semplicemente questo, e ripeto, possiamo permetterci, signor Capo dello Stato, alcune volte di dissentire, di non comprendere alcune sue decisioni, per esempio il fatto che ha fatto passare il lodo Alfano, che noi riteniamo incostituzionale, per il fatto che rischia anche adesso e si accinge di far passare le intercettazioni che noi riteniamo incostituzionale, sì, per il silenzio. Dopodiché io ho detto, noi non vogliamo rimanere in silenzio e vedere tutto questo che accade. Noi vogliamo far sentire la nostra voce. Noi vogliamo vogliamo reagire a tutto questo. Noi non vogliamo rimanere in silenzio, perché il silenzio uccide. Quindi era riferito a voi, non a Napolitano. Allora, dopodiché fa comodo attaccare il capo dello Stato, perché si guarda il dito, non si guarda la luce. Di Pietro. Ho 30 secondi, le chiedo, Tremonti dice sulla crisi, i banchieri, chi sbaglia lo manderei anche, o i banchieri, o chi ha sbagliato lo manderei anche in galera. Lei che farebbe in 30 secondi però sulla crisi? Concorda su Tremonti? Se è vero quel che dice, presenti un disegno di legge sull'articolo 2621 falso in bilancio, perché a oggi in galera non ci possono andare, perché lui e il suo governo hanno modificato la legge tale per cui in galera chi ruba e fa il banchiere in galera non ci può andare. Quindi predica bene e razzola male. Anche questo è un'offesa? Va bene, io Di Pietro la ringrazio, Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, per essere stato con noi, sempre molto sanguigno, come sapete. Grazie, buon lavoro. Parliamo di cose un po' più leggere, per esempio, dopo il traffico, perché non raddoppiare i costi dei pacchetti delle sigarette per fare cassa sui fumatori? Le 8:47 minuti, 349-238-6666. Allora, la sanità va male, c'è un deficit incredibile, lo sappiamo, certificato. Ieri Mario Pirani, sulle pagine di Repubblica, fa questa provocazione. Visto che lo Stato preleva circa 13 miliardi di euro dalla vendita delle sigarette, dalle tasse eccetera, raddoppiamo da domani il costo delle sigarette e adesso forse qualcuno abbandonerà per i prezzi più alti il fumo, però insomma non sarà il raddoppio del prelievo fiscale per lo Stato, ma certo aumenteremo di 5, 6, 7 miliardi i prelievi fiscali sulle sigarette dallo Stato e li mettiamo nel sistema sanitario nazionale. Che ne pensate? Io saluto Girolamo Sirchia, professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Quel ministro che dai fumatori è ancora visto come con uno sguardo un po' così, insomma, sospettoso. Lei che ne pensa? Non tanto aumentare per disincentivare il fumo, ma proprio Pirani dice facciamo cassa sui fumatori e sistemiamo le casse del sistema sanitario nazionale. Ma dunque l'esperienza di alcuni altri paesi dice che aumentare le tasse, le accise sulle sigarette scoraggia i fumatori, soprattutto i più giovani, e quindi è una misura raccomandata soprattutto dall'OMS per questo fine, non per fare la cassa. Il provvedimento è sicuramente buono a condizione che l'incremento sia progressivo e poco alla volta, cioè non da oggi al domani, perché questo vuol dire veramente creare un'ira popolare. Allora aumentare progressivamente, cioè nel giro di 2 o 3 anni, portare magari non al raddoppio ma a un consistente aumento, è una misura di salute pubblica. Beh, Pirani ha detto raddoppio, insomma, poi si può studiare, però insomma questa è l'idea provocatoria. Tra l'altro, visto che c'è anche un grande giornalista, Valentino Parlato, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Anche grande fumatore, dobbiamo dire, no? Io leggevo che era 80 sigarette al giorno, forse è sceso a 60, ma insomma giù di lì? Siamo lì. Siamo a 60. Ecco, che ne pensa del suo collega, conosce molto bene Pirani? Guardi, Mario Pirani è un amico antico e carissimo, e le cose che dice sulla crisi della sanità e i guai fatti dal federalismo e via di seguito sono indiscutibili, su questo non c'è da dire niente, solo che la sua proposta porta un altro pesante impulso alla persecuzione dalla quale siamo sottoposti noi schiavi del fumo, diciamo, no? Prima c'è stato l'onorevole Sirchia che ci ha espulso dai ristoranti, dai caffè e anche dalle camere d'albergo, adesso siamo a questa tassazione. Insomma, rendiamoci conto, i dati di Pirani, quelli che ho citato lei, noi fumatori già paghiamo 13 miliardi di euro di tasse allo Stato quando fumiamo le sigarette, un contributo non sottovalutabile. E così sarebbero di più se si aumentano i costi? Con l'aumento del 50% arriveremo a 20 miliardi. Adesso francamente siamo schiavi, siamo viziosi, tutte queste cose qui, ma mi sembra assolutamente persecutorio fare pagare 20 miliardi di tasse a noi fumatori. Che paga 20 miliardi di tasse? Allora, tra l'altro, professor Sirchia, contrastando parlato... contrastando parlato c'è un'ascoltatrice che invece ci scrive, grazie, anzi l'ascoltatore mi ha fatto smettere di fumare, Sirchia, però vede che ancora a distanza di anni è parlato, insomma dice ci hanno escluso dai ristoranti. Se permette, dottor Parlato, sì, che saluto, vorrei dire una cosa, cioè ogni fumatore costa 2 euro allo Stato ogni anno per problemi sanitari aggiuntivi e per giornate di lavoro perse. Allora questo è vero quello che lui dice, e non si vuole certo perseguitare nessuno, però se si potesse rimborsare in un certo senso tra virgolette questo danno provocato alle casse dello Stato, io credo che non sarebbe del tutto sbagliato. Effettivamente questo è un altro elemento di accusa ai fumatori, parlato, mi passa questa parola, di accusa ai fumatori. Insomma, i fumatori pesano sulle casse dello Stato perché si ammalano di più, fanno quindi sul sistema sanitario nazionale già pesano, però. Che pesano? Pesano perché fanno visite, si ammalano di più, fanno visite. Questa che si ammalano di più non è vero, ci sono centenari fumatori. Ma insomma, voglio dire. Non dirà che il fumo fa bene, insomma, l'hanno anche scritto sui pacchetti, insomma. Ma questo voglio dire, secondo me, io sarò schiavo del fumo e penso che questo sia molto ingiusto perseguitare gli schiavi, anche se è un vizio. Questa è una persecuzione, secondo me. Io pongo la domanda semplice: perché questo gruppo deve pagare, questo popolo di fumatori deve pagare 20 miliardi di tasse all'anno, di euro, 20 miliardi di euro? Chi è che dà 20 miliardi di euro? Ma perché non, se la sanità deve essere tutta a carico dei fumatori? Via. Sirchia, si vuol far cassa sui fumatori in bestia così, effettivamente anche come provocazione non c'è. Il provvedimento non è teso a fare questo, non parlo di quello che... No, la provocazione di Pirani, no, certo. No. Non parlo di... Però il provvedimento è mirato esclusivamente a ridurre la percentuale di giovanissimi che inizia a fumare. Che dice Parlato, ma perché pesiamo? Lei dice invece pesano, insomma, sul sistema sanitario nazionale. Voglio dire, purtroppo è una consuetudine di questi 12 milioni di italiani che costa e che arreca danni. E quindi il fumo è un grande inquinante, allora dobbiamo, come riduciamo l'inquinamento, cerchiamo di ridurre l'inquinamento per altre sorgenti, dobbiamo anche sforzarci di capire che dobbiamo combattere questa abitudine, questa brutta abitudine, e soprattutto dobbiamo evitare che i ragazzini, come sta succedendo ora, a 11 anni, a 10 anni, comincino a fumare, perché diventano veramente schiavi per tutta la vita di questo vizio. Però Parlato è qui a rivendicare la sua schiavitù e quindi per questo non perseguibile, no? Parlato, mi sembra di capire questo. Un po' ragionamento filosofico anche molto interessante. Però. Non solo schiavi del fumo, ma anche perseguitati dallo Stato. Vabbè. Comunque, noi staremo a vedere se questa, che rimane per ora una provocazione di Pirani, però è un tema molto discusso. Di recente anche l'Istituto Superiore di Sanità ha detto che bisogna aumentare il prezzo delle sigarette, perché poi bisogna disincentivare. Del prezzo delle sigarette indurrà noi schiavi a rivolgerci ai contrabbandieri. Questo è un elemento che Pirani ha esaminato ieri, ha detto, non so, ha fatto le cifre: lo Stato ora incassa 6,5 miliardi di euro dalle tasse, depurato da tutto. Se si raddoppiasse il prezzo, certo non è che si andrebbe al doppio, 13 miliardi, perché molti andrebbero dai clandestini, molti smetterebbero di fumare, quindi sarebbe anche un disincentivo. Però mettiamo, dice Pirani, che invece di altri 6,5 miliardi, il gettito fiscale aumentasse di anche solo 5 miliardi o 4 miliardi, questi soldi farebbero comodo al sistema sanitario nazionale. Staremo a vedere. Grazie al professor Girolamo Sirchia, grazie a Valentino Parlato per la vostra anche simpatia, insomma, a trattare questo tema che è molto popolare, come vedo dai messaggi. Ringrazio come al solito Laura Marchesi e Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Con 24 Mattino ci fermiamo qui, c'è la mail 24mattino@radio24.it. E vi ricordo, tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, si parla del caso Battisti, caso che su tutte le prime pagine dei giornali. C'è anche il ministro degli esteri Frattini, per telefonare 800 24 0024. Noi ci ritroviamo domattina.